Cari fratelli e sorelle, ritornerò oggi in questo nostro incontro del mercoledì alla straordinaria figura di Papa Gregorio Magno per raccogliere qualche ulteriore luce dal suo ricco insegnamento. Nonostante i molteplici impegni connessi con la sua funzione di Vescovo di Roma, egli ci ha lasciato numerose opere alle quali la Chiesa nei secoli successivi ha attinto a piene mani. Oltre al cospicuo epistolario, avevo detto mercoledì scorso che abbiamo 800 lettere conservate, egli ci ha lasciato innanzitutto scritti di carattere esegetico, tra cui si distinguono il commento morale a Cioppe, noto sotto il titolo latino di Moralia in Job, le omelie su Ezechiele, le omelie sui Vangeli. Vi è poi un'importante opera di carattere agiografico, i dialoghi, scritta da Gregorio per l'edificazione della regina longobarda Teodelinda. L'opera principale più nota è senza dubbio la regola pastorale che il Papa redasse all'inizio del pontificato con finalità chiaramente programmatiche. Volendo passare in veloce rassegna a queste opere, dobbiamo anzitutto notare che nei suoi scritti Gregorio non si mostra mai preoccupato di delineare una sua dottrina, una sua originalità. Piuttosto egli intende farsi eco dell'insegnamento tradizionale della Chiesa, vuol semplicemente essere la bocca di Cristo e della sua Chiesa, della Chiesa nel cammino che occorre percorrere per giungere a Dio. Esemplari sono a questo proposito i suoi commenti esegetici. Gregorio fu un appassionato lettore della Bibbia, a cui si accostò con intendimenti non semplicemente speculativi. Dalla Sacra Scrittura il pensiero cristiano deve trarre non tanto conoscenza teoretica, quanto piuttosto il nutrimento quotidiano per la sua anima, per la sua vita di uomo in questo mondo. Nelle omelie su Ezechiele, ad esempio, egli insiste fortemente su questa funzione del testo sacro: avvicinare la scrittura semplicemente per soddisfare il proprio desiderio di conoscenza significa cedere alla tentazione dell'orgoglio ed esporsi così al rischio di scivolare nell'eresia. L'umiltà intellettuale è la regola primaria per chi cerca di penetrare le realtà soprannaturali partendo dai libri sacri. L'umiltà ovviamente non esclude lo studio serio, ma per far sì che questo risulti spiritualmente proficuo e entri realmente nella profondità del testo, essa resta indispensabile. Solo con questa umiltà intellettuale si ascolta realmente, si percepisce finalmente la voce di Dio. D'altra parte, quando si tratta di parola di Dio, comprendere non è nulla se la comprensione non conduce alla azione. In queste omelie su Ezechiele si trova anche la bella parola dove dice: il predicatore deve intingere il suo calamo del sangue del suo cuore e così arriverà anche all'orecchio del prossimo. Leggendo queste sue omelie si vede che realmente ha scritto con il sangue del suo cuore e perciò ancora oggi parla a noi. Questo discorso Gregorio sviluppa ulteriormente nel commento morale a Cioppe. Seguendo la tradizione patristica, egli esamina il testo sacro nelle tre dimensioni del suo senso: la dimensione letteraria, la dimensione allegorica e quella morale, che sono dimensioni dell'unico senso della Sacra Scrittura. In questa prospettiva egli propone il suo pensiero attraverso alcuni binomi significativi: sapere, fare, parlare, vivere, conoscere, agire. In questi binomi evoca i due aspetti della vita umana che dovrebbero essere complementari ma che purtroppo spesso finiscono per essere antitetici. L'ideale morale, le commenta, consiste sempre nel realizzare una armoniosa integrazione tra parola e azione, pensiero e impegno, preghiera e dedizione ai doveri del proprio Stato. E questa è la strada per realizzare questa sintesi, grazie a cui il divino discende nell'uomo e l'uomo si eleva fino all'immedesimazione con Dio. Il grande Papa traccia così per l'autentico credente un progetto completo di vita in questo commentario al libro di Cioppe, un libro che costituirà nel corso del Medioevo una specie di somma della morale cristiana. Di notevole rilievo e bellezza sono pure le omelie sui Vangeli. La prima di esse fu tenuta nella Basilica di San Pietro durante il tempo di avvento del 1990 e dunque pochi mesi dopo l'elezione al pontificato. L'ultima fu pronunciata nella Basilica di San Lorenzo nella seconda domenica dopo Pentecoste del 1993. Il Papa predicava al popolo nelle chiese dove si celebravano le stazioni, particolari cerimonie di preghiera nei tempi forti dell'anno liturgico o le feste dei martiri titolari. Il principio ispiratore che lega insieme i vari interventi si sintetizza nella parola predicator. Non solo il ministro di Dio, ma anche ogni cristiano ha il compito di farsi predicatore di quanto è sperimentato nel proprio intimo sull'esempio di Cristo che si è fatto uomo per portare a tutti l'annuncio della salvezza. L'orizzonte di questo impegno è quello escatologico, l'attesa del compimento in Cristo di tutte le cose è un pensiero costante del grande pontefice e finisce per diventare motivo ispiratore di ogni suo pensiero e di ogni sua attività. Da qui scaturiscono i suoi incessanti richiami alla vigilanza e all'impegno nelle buone opere. Il testo forse più organico di Gregorio Magno è la regola pastorale scritta nei primi anni di pontificato. In essa Gregorio si propone di tratteggiare la figura del vescovo ideale, maestro e guida del suo Crece. A tal fine egli illustra la gravità dell'ufficio di pastore della Chiesa e i doveri che esso comporta. Pertanto, quelli che a tale compito non sono stati chiamati non lo ricerchino con superficialità. Quelli invece che l'avessero assunto senza la debita riflessione sentano nascere nell'animo una doverosa trepidazione. Riprendendo un tema prediletto, egli afferma che il vescovo è innanzitutto il predicatore per eccellenza. Come tale, egli deve essere innanzitutto di esempio agli altri, così che il suo comportamento possa costituire un punto di riferimento per tutti. Un'efficace azione pastorale richiede poi che egli conosca i destinatari e adatti i suoi interventi alla situazione di ognuno. Gregorio si sofferma ad illustrare le varie categorie di fedeli con acute e puntuali annotazioni che possono giustificare la valutazione. Chi ha visto in quell'opera anche un trattato di psicologia si vede che ha realmente conosciuto il suo Crece, parlato, vissuto con la gente del suo tempo, della sua città. Questo grande pontefice comunque insiste sul dovere che il pastore ha di riconoscere ogni giorno la propria miseria, in modo che l'orgoglio non renda vano dinanzi agli occhi del giudice supremo il bene compiuto. Per questo il capitolo finale della regola è dedicato all'umiltà e dice: quando ci si compiace di aver raggiunto molte virtù, È bene riflettere sulle proprie insufficienze ed umiliarsi. Invece di considerare il bene compiuto, bisogna considerare quello che si è trascurato di compiere. Tutte queste preziose indicazioni dimostrano l'altissimo concetto che San Gregorio ha della cura delle anime, da lui definita ars artium, l'arte delle arti. La regola è per grande fortuna al punto che cosa piuttosto rara, fu ben presto tradotta in greco e in anglosassone. Significativa è pure l'altra opera, i dialoghi, in cui l'amico e diacono Pietro, convinto che i costumi fossero ormai così corrotti da non consentire il sorgere di santi come nei tempi passati, Gregorio dimostra il contrario. La santità è sempre possibile, anche in tempi difficili, e dimostra questo narrando la vita di persone contemporanee o scomparsi da poco, che potevano ben essere qualificate sante senza essere canonizzati. La narrazione è accompagnata da riflessioni teologiche e mistiche che fanno del libro un testo agiografico singolare, capace di affascinare intere generazioni di lettori. La materia è attenta alle tradizioni vive del popolo ed ha lo scopo di edificare e formare, attirando l'attenzione di chi legge su una serie di questioni, quale il senso del miracolo, l'interpretazione della scrittura, l'immortà dell'anima, l'esistenza dell'inferno, la rappresentazione dell'aldilà, temi tutti che appassignavano di opportuni chiarimenti. Il libro secondo, interamente dedicato alla figura di Benedetto da Norcia ed è l'unica testimonianza antica sulla vita del santo monaco nella quale appare vivo in tutta la sua bellezza spirituale la figura di questo grande santo. Nel disegno teologico che Gregorio sviluppa nelle sue opere, passato, presente e futuro vengano relativizzati. Ciò che per lui conta più di tutto è l'arco intero della storia salvifica che continua a dipanarsi tra gli oscuri meandri del tempo. In questa prospettiva è significativo che egli inserisca l'annunzio della conversione degli Angli nel bel mezzo del commento morale a Gioppe. Ai suoi occhi l'evento costituiva un avanzamento del regno di Dio di cui tratta la scrittura. Poteva quindi a buona ragione essere menzionato nel commento ad un libro sacro. Secondo lui le guide della comunità cristiane devono impegnarsi a rileggere gli eventi alla luce della parola di Dio. In questo senso il grande pontefice sente il dovere di orientare pastori e fedeli nell'itinerario spirituale di una lezione divina illuminata e concreta collocata nel tempo della propria vita. Prima di concludere è doveroso spendere una parola sulle relazioni che Papa Gregorio coltivò con i patriarchi di Antiochia, di Alessandria e della stessa Costantinopoli. Si preoccupò sempre di riconoscerne e rispettarne i diritti, guardandosi da ogni interferenza che ne limitasse la legittima autonomia. Se tuttavia San Gregorio, nel contesto della sua situazione storica, si oppose al titolo patriarca ecumenico da parte del patriarca di Costantinopoli, non lo fece per limitare o negare questa legittima autorità, ma perché nel questo contesto del suo tempo fu preoccupato per l'unità fraterna della Chiesa universale e lo fece soprattutto per la sua profonda convinzione che l'umiltà dovrebbe essere la virtù fondamentale di ogni vescovo, ancora più di un patriarca. Gregorio è rimasto semplice monaco nel suo cuore e perciò era decisamente opposto a grandi titoli. Egli voleva essere, questa è la sua formula, il servus servorum Dei. Questa parola da lui creata nella sua bocca non è una pia formula, ma è la vera espressione del suo modo di vivere e di agire. Gregorio fu intimamente colpito dall'umiltà di Dio, che in Cristo si è fatto nostro servo, ci ha lavato e lava i piedi sporchi. Gregorio fu convinto che soprattutto un vescovo dovrebbe imitare questa umiltà di Dio e così seguire Cristo. Il suo desiderio permanente fu vivere da monaco nel permanente colloquio con la parola di Dio, ma per amore di Dio si è fatto servitore di tutti in un tempo pieno di tribolazione e di sofferenze, servo dei servi. Proprio perché è stato questo, è grande e ci mostra la misura della vera grandezza.